Storiacce di Raffaella Calandra. Confermo, se ritrovi vivi. Stiamo operando insieme a USA Toscana e a componenti delle ponte per tirarli fuori. Ma sono vivi. Copiato, sei vivi. Grazie caporeparto, ci vediamo a breve, sto salendo su. I primi li hanno salvati dopo 42 ore sotto ghiaccio e neve. Un applauso e un brivido di emozione si diffonde tra i soccorritori e ben presto dall'hotel Rigopiano in tutto il mondo, ricaricando il motore della speranza, una speranza che sembrava affievolirsi ma che invece dopo un giorno e due notti di ricerche torna ad alimentare i soccorsi. Nonostante le pessime condizioni, nonostante il nuovo rischio valanga, nonostante siano stati invece corpi senza vita i primi individuati. Ma mentre ancora il dramma di Rigopiano, di una valanga che sommerge un resort e i suoi ospiti, tiene avvinti a radio e TV migliaia di persone, pesanti interrogativi si levano. Quell'albergo, innanzitutto, poteva essere aperto nonostante l'allarme valanghe? Perché quello spazzaneve che avrebbe dovuto permettere agli ospiti spaventati dal terremoto di andare via non è invece mai arrivato? E poi, cosa è successo dal primo allarme slavina al momento in cui i soccorsi si sono messi effettivamente in moto? Da qui partiamo in questa puntata di Storiacce, dalla trappola ad alta quota dell'hotel Rigopiano. Noi, io e il collega Andrea Papalia, abbiamo aperto questo fascicolo che è intestato ignoti. È in questo momento un contenitore che è iscritto per due qualificazioni giuridiche. Una è disastro colposo e l'altra è omicidio plurimo colposo. Queste due qualificazioni giuridiche descrivono quelli che sono i nostri temi di indagine e quelli che saranno gli accertamenti e le acquisizioni che andranno a confluire, stanno già confluendo. Stava per lasciare la procura di Pescara, Cristina Tedeschini, per andare a dirigere quella di Pesaro, ma ora attraverso la sua scrivania e i suoi uffici passano le domande di chi è rimasto quasi due giorni sotto al ghiaccio e dei familiari di quanti sotto quella valanga hanno perso la vita. Ci sono delle responsabilità di qualcuno in quello che è successo? Ci sono state delle omissioni? Un'indagine non semplice questa e assai dolorosa, quella che si avvia negli uffici di Pescara, dove si andrà anche a scavare nei giorni precedenti la valanga, dal momento in cui cioè quell'allerta è stata diffusa, per poi andare indietro fino a ricostruire la storia intera del resort a 4 stelle con vista sul Gran Sasso. Era tutto in regola? Poteva davvero stare lì quell'hotel, in quella posizione? In una terra devastata da ripetuti terremoti e da neve, la valanga è stata come il colpo di grazia. Un'emergenza sopra l'altra. Emergenza neve, emergenza valanghe. C'è arrivata adesso l'allerta per le valanghe, poi il terremoto si è sentito forte. È il 14 gennaio e a molti comuni come Ussita viene diramata un'allerta valanghe. Ma cosa prevede quell'allarme? Quali sono le procedure da seguire? E tutte le comunicazioni trasmesse agli organi istituzionali, a cominciare dai municipi, avevano poi raggiunto effettivamente tutti i destinatari? È fatta soprattutto di dubbi ora l'indagine della Procura di Pescara, che ha già acquisito i primi documenti alla provincia e ha già cominciato ad ascoltare i sopravvissuti. Tre i filoni del fascicolo sui quattro giorni dall'allerta valanga al disastro, sui tempi dello spazzaneve e dei soccorsi dopo la slavina e poi ancora sulla struttura del resort. Poteva sorgere lì? Domande che si affollano nell'ufficio del procuratore Tedeschini. Tre filoni di temi di indagine. Il primo filone in pratica riguarda tutti gli accertamenti che servono per dare delle risposte a queste persone che stavano lì quando è arrivata la valanga. Ci sono delle condotte omissive, negligenti, imprudenti, per le quali queste persone che la mattina del 18 se ne volevano partire non sono riuscite a partire? Cioè, per intenderci, se ci sono state delle omissioni nell'invio dello spazzaneve e quindi nella pulizia delle strade. Prima che arriva la valanga, queste persone hanno cominciato a decidere di voler partire e non sono riuscite a partire. Dopodiché sono arrivate un sacco di telefonate in un sacco di posti che chiedevano: ci liberate la strada perché bisogna che gli ospiti dell'albergo vadano via. Questo spazio neve che doveva arrivare alle 13, che doveva arrivare alle 15, dopo poi non è arrivato mai. Quindi è chiaro che tutte le condotte prima dell'arrivo della valanga per me sono tutte quante importanti. Poi arriva la valanga, 16.40, 17.01, parete telefona, comincia a telefonare dicendo qui è successo questo, aiutateci. Bene, da questo momento in poi fino all'arrivo dei soccorsi io ho da acquisire come sono andate le cose e se le reazioni del sistema sono state quelle che il sistema si aspettava oppure no. Poi ce n'è un altro che è quello immediatamente precedente che comincia intorno al 14 di gennaio dove viene diramato un'allerta valanghe che per quella zona lì è praticamente al top perché sta a 4 piuttosto che 5. E allora la domanda è: abbiamo diramato un'allerta valanghe alle 14, l'abbiamo mandato qui. Cosa è successo? Il sistema ha reagito nel modo in cui doveva reagire oppure anche qui io devo registrare, vado a registrare delle condotte che non dovevano essere e che hanno fatto in modo che l'albergo poi invece il 18 ci arrivasse la valanga e c'era la gente dentro. Forse quell'albergo non doveva essere aperto visto l'allarme valanghe. Brava, potrebbe anche essere così. Ma tu, io le sto descrivendo i temi di indagine, non le sto dando le risposte alle domande che ci stiamo facendo. Allora tutto un gruppo di domande ruota attorno a questo problema qui, perché siccome è arrivata una valanga e siccome c'era stata un'allerta valanghe, io devo sapere se il sistema di prevenzione ha funzionato come prevedibile, poi ci si è pure messo un terremoto in mezzo e allora siamo andati a carte 48, oppure a prescindere magari dal terremoto, magari forse dovevamo chiuderlo, evacuarlo questo albergo, che ne so, il 15, magari il 16, magari il 17. Il primo punto sta proprio in questi 4 giorni, tra il 14 e il 18, e del perché quell'albergo era aperto e pieno di ospiti. Sono domande, si chiamano tecnicamente temi di indagine, cioè io mi pongo dei ragionevoli quesiti e vado a cercarmi le risposte. L'allerta valanghe non è soltanto l'annuncio in quanto tale, ma prevede una serie di passaggi e io immagino che la cosa più logica sia che nel raggio, diciamo, dell'ipotetica arrivo della valanga non ci debba essere nessuno. Quindi, come dire, questo tipo di comunicazioni vengono inviate non soltanto agli uffici, ma anche ai destinatari ultimi. Queste comunicazioni del sistema di prevenzione delle valanghe vengono inviate agli interlocutori istituzionali. Gli interlocutori istituzionali sono quelli che sono incaricati di prendere poi i provvedimenti conseguenti. E infatti i sindaci avevano ricevuto l'allerta valanga. La domanda è se il sindaco di Farindola avesse trasmesso all'albergo questa comunicazione con l'allerta valanga. Queste sono già sue conclusioni. Io devo esaminare e acquisire come in fatto ha funzionato questo sistema. Poi nell'ambito di quello che è successo farò le mie valutazioni. Devo confrontare ciò che è stato con ciò che doveva essere e dopo farò le valutazioni. Ma quando succedono questi disastri si ricostruisce l'intero accaduto e si va ancora più indietro nel tempo, nel caso specifico scavando nella storia del resort a 4 stelle con vista sul Gran Sasso. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Che fino a che non arrivavi lì non sentivi niente, non riuscivi a sentire, tra l'altro con la neve, tutta la neve che c'era sopra riuscivi a sentire niente, erano stravolti e allo stesso tempo felici, proprio una cosa indescrivibile, non so come dirvi, perché le bambine, cioè loro probabilmente neanche si sono rese conto, erano piccoline, però sicuramente erano felici, insomma, no? Sono arrivati i soccorsi, poi loro vedono l'elicottero, erano stravolte. È stato il fumo e poi qualche segnale fiutato dai cani ad aiutare i soccorritori e a portarli fino al primo gruppo di superstiti. La gioia di Marco Bini, del soccorso alpino della Guardia di Finanza, è stata allora la gioia di tutti ed è stato lo sprone per alimentare altre speranze. Ma le speranze in queste lunghissime operazioni di soccorso sotto le macerie e il gelo dell'hotel Rigopiano viaggiano insieme alle domande intorno alle cause possibili del disastro e alimentano la rabbia carica di angoscia dei familiari. Ben prima della slavina avevano ricevuto messaggi preoccupati di chi, dopo le forti scosse di terremoto, avrebbe voluto lasciare quel resort, ma di fatto si sentiva ed era in trappola, perché la neve alta bloccava le strade e lo spazzaneve tardava ad arrivare. Se la prima domanda anche dell'inchiesta, come abbiamo sentito già nella prima parte di Storiaccio, è se l'albergo poteva effettivamente essere aperto, vista l'allerta valanghe diramata 4 giorni prima, la domanda successiva riguarda invece il perché le persone non fossero in condizioni di lasciare il resort e poi ancora riguarda i tempi dei soccorsi dopo la valanga. Il primo a dare l'allarme è stato Giampiero Parete, lo chef sopravvissuto, la cui famiglia si è salvata per intero. Oltre ai centralini delle forze dell'ordine, ha chiamato allora anche un amico, il suo datore di lavoro, Quintino Marcella, che a sua volta ha contattato tutti. Ma, come racconta Storiacce, subito non sono stato creduto. Il mio chef è andato in vacanza con la sua moglie e con i due bambini, Ludovica di 6 anni e Gianfilippo di 8. Mi ha chiamato dicendo: guarda, noi ce ne torniamo perché le condizioni atmosferiche non sono delle migliori, quindi vogliamo andare via. Poi c'è stato una scossa di terremoto, abbiamo paura, andiamo via. Dice che doveva andare allo spazzaneve verso le 3, ma da quello che ho capito sto spazzaneve non è arrivato lì, quindi sono rimasti lì. Alle 5:30, 6:15, tutti gli ospiti stanno nella Hall 0, tutti raccolti lì, avevano già pagato il conto per andare via. La moglie si sentiva poco bene, esce fuori per prendere le medicine in macchina, come si gira la testa del suo hotel, vede una valanga di neve e alberi sull'albergo e mi ha detto, ha chiamato, ha telefonato subito e mi ha detto: guarda, aiuto, chiedimi di aiuto ai soccorsi, qui il problema è grande, l'albergo è sommerso, aiuto, aiuto per favore. Io subito, appena ho riattaccato il telefono, ho chiamato subito. Ecco, chi ha chiamato lei? Prima il 113, mi ha passato alla prefettura. Ho parlato con una signora di Vigeni che coordinava questi servizi e lei mi ha detto: guardi che 2 ore fa abbiamo parlato con il direttore dell'hotel e lì non c'è nessun problema, è tutto a posto. Ma io ho continuato un po' arrabbiato perché dico: come tutto a posto, mi ha chiamato adesso? Il mio cuoco è una persona seria. Il morale della favola, insomma, non sono stato tanto creduto. Comincio a chiamare i carabinieri, chiamato 117, 118, ho chiamato tutti. Ho richiamato la polizia ancora una volta, dopodiché praticamente dopo un'ora e mezza non mi ricordo, mi ha richiamato uno della protezione civile, mi ha detto: guardi che allora mi dia il numero del cuoco, mi ha preso le cose, ma ha preso in considerazione la mia telefonata. Quindi un'ora e mezza dopo? Beh, circa. Ma dopodiché che cosa è successo? Che praticamente fino alle 11 ci siamo messaggiati un po' per nel dire, lui mi chiedeva aiuto, io dicevo: stanno arrivando, ma sta arrivando purtroppo. Io adesso ho capito che è una macchina molto complessa, però non lo capisci sempre dopo, l'ho capito subito. E oggi mi ha telefonato appena arrivato il primo soccorso lassù, che lui prima ancora di mettersi sullo slittino mi ha chiamato, mi ha detto: guardi che io sto andando a pescare con l'elicottero, con l'ambulanza. Dopo un'oretta vado a pescare, lo raggiungo, ci parlo, mi ha raccontato un po' questo avvenimento. Il fatto di che quando si è girato, che è andato a prendere la medicina alla moglie, ha avuto ha visto tutta questa immagine brutta, perché ieri non è che mi ha raccontato come stamattina, ieri è stato molto sintetico, stamattina mi ha raccontato tutto, poverino. Poi lui è una persona che lavora da una vita, la moglie altrettanto, 2 stupendi bambini, c'è una famiglia veramente bella, rispettosa, insomma. Unita, onesta. Ecco, la famiglia del suo chef, quindi di Giampiero Parete, che è tuttora tra i dispersi, si trovava nella hall, quindi quando c'è stata la slavina? Sì, sì, ma tutti nella hall stavano, tutti. Erano già pronti, avevano fatto le valigie, tutti. Pagati i conti, tutto. Quindi, professore, secondo lei ci sono stati dei soccorsi, dei ritardi negli interventi, diciamo, dei soccorsi? Guardi, il fatto, sai cos'è? In questa prima fase io ho notato questa anomalia, secondo il mio punto di vista, ma poi il resto, lì la macchina è molto complessa, lì c'è la neve, ce n'era tanta, cioè io ho visto uno spiegamento di forze favoloso. Favoloso intendo nel senso nutrito, abbondante, perché 3 metri di neve non sono pochi, cioè si sono adoperati molto. Il suo racconto, il racconto di Quintino Marcella, rappresenta un passaggio importante nella ricostruzione dei fatti di quanto avvenuto dopo la valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano e quindi anche dell'inchiesta che però, oltre a stabilire cosa sia successo subito prima e subito dopo la valanga, va anche indietro nel tempo e nella storia dell'hotel per capire ad esempio se quell'albergo avesse tutto a norma per essere lì. Tutte domande investigative su cui lavora il procuratore Cristina Tedeschini prima di lasciare Pescara per andare a dirigere l'ufficio di Pesaro. Devo confrontare ciò che è stato con ciò che doveva essere e dopo farò le valutazioni. Ma risposte in questo momento io non ne ho, sapere che cosa effettivamente hanno fatto tutti gli interlocutori istituzionali di questo sistema di prevenzione. Un sistema di prevenzione esiste per evitarlo, poi le morti per valanga, giusto? Poi c'è un terzo e ultimo tema di indagine che è quello un po' più remoto, cioè che riguarda gli interrogativi intorno all'esistenza fisica di quell'albergo lì, in piena zona parco, in un luogo per l'appunto montuoso, piuttosto impervio, con problemi di neve, eccetera, eccetera. E quindi questo è tutto un problema di valutazione degli atti autorizzatori che hanno consentito la realizzazione di questo albergo e la sua apertura al pubblico in determinate stagioni, eccetera, eccetera, eccetera. E questo anche se c'era già stato un processo riguardante l'abuso edilizio. Allora, c'è stato un processo, però quel processo lì, non so quale tipo di abuso edilizio, in relazione a somme di denaro, capito? Cioè il tema di quel procedimento era un fatto di corruzione, non un'analisi fatta bene di se quell'albergo lì è conforme alle norme del piano, alle norme ambientali, alle norme di sicurezza. Questo non è stato oggetto di quel procedimento. L'oggetto fisico albergo è lo stesso, ma l'oggetto giuridico indagine è diverso. In genere, come sapete, a questo punto, in chiusura della trasmissione, ci sono le nostre mitiche storiacce, ma stavolta, con una storia ancora così aperta e così calata nella stretta cronaca, abbiamo deciso di saltarle. E allora, mentre tutta la macchina dei soccorsi è ancora nel pieno dell'attività sul Gran Sasso, con rischi straordinari anche per loro, vogliamo chiudere la puntata come abbiamo cominciato, con quell'annuncio che ricompensa gli sforzi di tutti i soccorritori e che per tutti, anche per noi, è motore di speranza. Confermo, se ritrovi vivi, stiamo operando insieme a USAR Toscana e a componenti delle ponte per tirarli fuori, ma sono vivi. Copiato, sei vivi, grazie caporeparto, ci vediamo a breve, sto salendo su. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e su Twitter. L'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.